Questa canzone è un omaggio alla vita di quelle persone che non l'hanno mai tradita. Questa canzone è un omaggio alla vita di quelle persone che non l'hanno mai tradita. Nata in Algeria, sotto i raggi del sole, sua madre turca, il padre sempre nel cuore. Quando le chiedono di che razza sei, lei risponde da signora: appartengo alla razza umana, figlia di chi ha lottato contro i coloni francesi, contro l'integralismo islamico. Suo padre, senza dubbio unico, lo trovarono assassinato con tre pallottole nel cuore. Lui che aveva sempre difeso la cultura in ogni dove. La tua storia, Nadira, merita lo sguardo del cielo. Ogni tua lacrima spesa per imparare l'italiano illumina la nostra lingua. Tu sei l'inno nazionale dei popoli senza voce, della dignità universale. La tua storia, Nadira, figlia del vento berbero, figlia del deserto limpido, stella del Mediterraneo, raccontaci che abbiamo bisogno di storie da raccontare in questa terra sempre più arida, in questa terra che brucia di dolore. Storia di un'italiana, figlia della memoria, storia di un'italiana, una storia nella storia. Storia di un'italiana, madre di mille cieli, mille mari senza confini, che quando parla, parla ai cuori, crede in un paese dove etero e omosessuali, neri, atei, cristiani, ebrei e musulmani possano vivere la loro storia, difendere la loro memoria, far sentire la loro voce in armonia e in pace. E tuo padre è nostro padre, nostro fratello nel nostro cuore. Tuo padre è anche il mio, che non ho mai potuto vedere, come Falcone e Borsellino, loro i nostri guardiani, i nostri umili angeli, il nostro domani. E tuo padre è nostro padre, nostro fratello nel nostro cuore. Tuo padre è anche il mio, che non ho mai potuto vedere, come Falcone e Borsellino, loro i nostri guardiani, i nostri umili angeli, il nostro domani.